Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Io so che questa mattina toccherò il cuore di molte ascoltatrici. So altresì che susciterò le ire e la rabbia di forse altrettante ascoltatrici. Questa mattina vorrei parlare di un problema che più volte è stato sollevato anche da questi microfoni, più volte è stato registrato come reazione del pubblico, un problema doloroso, un problema imbarazzante, un problema che in sé è capace di scardinare la compattezza di una famiglia, è capace di creare sconcerto, di creare situazioni dolorosissime, è capace di togliere la speranza di serenità, di felicità possibile, di vita anche banalmente lieta a moltissime donne. Il problema è racchiuso in una chiave di irrisolvibile soluzione che ahimè comporta l'azione di altrettante donne. Quindi è un problema essenzialmente di donne, in cui il genere maschile solo lateralmente ne viene interessato e solo passivamente ne è protagonista. Il problema è quello dell'indissolubile, inestricabile, tetragono ed impossibile recidere legame tra una madre e il proprio figlio. Cinque ragazzi e le loro mamme. Per ogni ragazzo, 8 pretendenti. Moglie vuoi, dei paesi tuoi. E dopo viaggi, avventure, flirt ed eliminazioni, puntata dopo puntata, resterà solo l'anima gemella. Questa non esiste proprio. Sempre ammesso che vada bene. Torno su questo argomento che mi fa male al cuore, all'anima ed anche in parte al corpo. Solamente perché è stato riportato come argomento di stringente attualità da un nuovo reality su Italia 1 dedicato appunto ai mammoni. Partiamo dall'idea che il format non è un format italiano, è un format internazionale, quindi significa che esista una cifra globale del mammonismo, del cialtronismo maschile, dell'impossibilità e l'impotenza di stricarsi da questa sorta di eterno e funero abbraccio della madre. Lo dico semplicemente perché ho una certa esperienza attiva di programmi di questo tipo, essendo stato, e di questo ancora pago il fio, ma ancora con orgoglio ne impugno il diritto di averlo fatto come fantastica esperienza, dicevo, avendo partecipato come giuria in anni passati alla Pupa al Secchione, posso dirvi come funziona questo tipo di programmi. Sono una serie di poveri rincoglioniti di mezza età con delle orribili madri che sarebbero oggetto di disprezzo anche per un fabbricante di carne in scatola, che vanno in una specie di altarino, luogo del desiderio e dell'altrove della persona che guarda la televisione, quindi una persona dagli universi molto angusti, che si immagina il luogo della felicità, il luogo del trapasso, il luogo della realizzazione di ogni desiderio, immagina una bella villa in mezzo a un bosco in cui c'è un salottino con delle orrende poltroncine di raso rosso e dorate, dove si siede la mamma, dove si siede accanto il bamboccione della mamma, e sfilano delle ragazze e la mamma deve scegliere quale sarà la futura sposa del suo figliuolo. Le ragazze vanno, fanno dei numeri, c'è una che balla il samba, un'altra tenta di sedurre, la mamma fa delle fotografie, fotografa queste donne. Ora dico a tutte le signore che più volte sono scese in piazza per impugnare il giusto e lecito orgoglio del rispetto del corpo delle donne, si guardino questo programma, perché c'è un luogo in cui le donne sono oltraggiate, è questo luogo in cui le donne oltraggiano altre donne, in cui le mamme fotografano come se fosse il défilé di un casino di fine anni 50 quella che sarà la sposa adatta per il figlio, e la cerca più adatta possibile, più remissiva possibile, più soggiogabile possibile a lei e altre donne. Lei, la maîtresse della famiglia futura, sceglie la donna. Poi, per un piccolo omaggio al politicamente corretto, oscenamente politicamente corretto, c'è anche la mamma del ragazzo ballerino gay che sceglie i compagni gay di suo figlio, che sono tutte macchiette. per metterci il politicamente corretto, fanno una serie di macchiette piccoli e divertenti, con tutti con dei ciuffi da galletto cedrone, tutti con barbette perfette, tutti secondo lo stereotipo della gaiezza da rivista patinata, per anziani commercialisti con mogli e figli da sfogliare di nascosto nel cassetto della scrivania, sono lì pronti per la mamma. La mamma sembra una sorta di, non voglio fare apprezzamenti tipo fisico, ma ha qualcosa in sé, come se avesse le mammelle presenti sulla faccia, un'eterna allattatrice, una sorta di gozzone, pronta ad allattare il figlio sempre lì accanto a sé, che tutto garrulo e tutto contento è pronto a scegliere il compagno della sua vita. 800240024. Voi pensate che questo sia un quadro esasperato, sia un quadro macchiettistico? Sì, sono figuranti, tutte le persone che ho appena elencato sono persone che fanno una parte. I ragazzi saranno normalissimi ragazzi a non fare la parte di ragazzi scriteriati che hanno messo le loro palline in una sorta di scatolina d'oro consegnata alla mamma nel momento fatidico che hanno visto la luce, e forse la mamma gliele restituirà per pochi istanti quando dovranno a loro volta concepire possibilmente un'altra bambina, perché sia mamma di altri figli. Mio figlio è un bel ragazzo, lavora come modello, per cui è sempre circondato da belle donne, pensa di essere oggetto di attenzione più che altro per la sua avvenenza. A me piacerebbe tantissimo che trovasse la sua dolce metà e che mi rendesse mamma. Mio figlio Antonio è un ragazzo d'oro, intelligente, di successo, ha tutte le qualità indispensabili. Io vorrei trovare una ragazza che lo tratta non come marito, ma come un principe, come ho fatto io. Mio figlio è un gioiellino, dolce, solare. Che bello sarebbe avere una mamma che ti tratta come un principe e non ti molla, non stacca gli unghioni la tua schiena sanguinante finché non trova un'altra, pronta a trattarti come un principe, quindi a metterti ogni coscienza, ogni individualità, ogni desiderio di fuga, ogni desiderio di felicità nel freezer, chiuso dentro, congelato. Emanuele, buongiorno. No, Emanuele è morto, c'era già un ascoltatore. No, buongiorno. Ah, c'è Emanuele, ecco, sì. Sì, buongiorno. Ancora dei palpiti di vita. Perché ha chiamato, sì, Emanuele? Ho chiamato perché ho sentito la sua trasmissione e di fatto questa sorta di reality che stanno uscendo sono abbastanza inquietanti, anche perché poi si riflettono sulla natura di tanti giovani che poi ci sono. Io ho un figlio di 12 anni, di 14 anni, ma è 12 anni che sono separato, e la mamma fa da chioccia, ma lo farà e sono convinto che la farà per i prossimi 40 anni. Beh, a lei fa anche comodo, visto che ormai è separato, c'ha un peso, no, in meno. No, non fa comodo per niente, perché poi io alla fine ho mio figlio, non lo vedo più, cioè, perché sua madre nei miei confronti fa da schermo e... E beh, dovrà in qualche maniera farle pagare il fatto che siete separati, quindi naturalmente sta preparando il serial killer della sua vecchiaia. Quello è vero, penso che... sarà proprio così. Lo sta addestrando, vedrà quando suo figlio uscirà allo scoperto. Saranno cavoli amari per lei. Però devo dire che dà l'idea. Lei è riuscita a fuggire da questa sorta di infernale trappola, però è rimasto suo figlio. Lei ha due alternative: o si arma come un guerriero ninja, lo va a liberare e stermina la genitrice, o se no, naturalmente, deve soltanto ringraziare il fatto che ha salvato per ora la pellaccia. Ma vorrei far intervenire a questo punto un esperto in mammicidio che abbiamo più volte chiamato ai nostri microfoni, ma visto che sono così rari coloro che riescono ad impugnare una delle icone più sacre della nostra civilizzazione, abbiamo Fabrizio Blini. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Scrittore, autore, tra l'altro, di Mamma Mia, la figura della mamma come deterrente nello sviluppo culturale, sociale e economico dell'Italia moderna, Dalai Edizioni. Fabrizio, tu hai visto per noi, hai guardato per noi questa fiction, la tua prima impressione? Ma guarda, io trovo che questo tipo di programmi sono veramente una fucilata sulle ginocchia del buonsenso, perché oltre all'anacronismo, alle coloriture cabarettistiche che si possono fare in televisione, comunque questo dimostra che il problema esiste realmente, ma non c'è nessuna volontà di risolverlo. Ed è ancora più assurdo in un periodo come questo, di grande crisi sociale, culturale e politica, dove si invita la gente alla reazione, all'iniziativa, si parla di fuga di cervelli, poi si propongono questi modelli, no? Perché al di là di tutto, io dico, faccio una domanda. Ma non è un programma con un intento satirico che esorcizza qualcosa che non esiste, qualcosa che semplicemente fustiga ridendo quella che è una realtà che è già sotto pelle comunque ben presente. Ma io penso sempre che la TV sia più mimetica che catartica, per cui alla fine questo propone un modello che la gente copia, e io la domanda che faccio è questa: ma mettiamo che tra i concorrenti ci sia un medico, un consulente finanziario, ecco, voi vi fareste consigliare dove mettere i soldi da uno che si fa scegliere la fidanzata dalla mamma? Si fa consigliare dalla mamma dove metterlo lui, esatto. Praticamente, tutto, povero, povero, povero. Davide, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti, e complimenti. Sì, ma chiamate anche voi, signore e signorine, sia che voi siate mamme o siate vittime di mamme altrui, non soltanto maschi. Comunque, Davide, buongiorno. Buongiorno a lei. Io stavo dicendo che secondo me è una questione più grande, appunto, di questa trasmissione che io ho intravisto l'altro giorno velocemente, nel senso che è la punta dell'iceberg di un problema. È la punta dell'iceberg, Nicoletti, direi anche un po' patologica, di questo maschile che da qualche anno se n'è un po' andato a strane, ed è appunto grave, nel senso che è una posizione psicologica della dipendenza da un femminile, dalla madre, che poi se hai 3 anni, ne hai 10 o ne hai 60, ne hai bisogno della cravatta come a 15, hai bisogno che so io del giochetto elettronico, è la stessa questione, la questione di diventare adulti psicologicamente, e dunque è rappresentata in questa trasmissione che, ripeto, ho visto per 2 minuti benissimo, questo soft male, questo maschietto carino, politicamente corretto e a mio dire anche molto molto poco virile, insomma molto poco. Quindi per lei diciamo c'è una sorta di devirilizzazione del genere maschile, naturalmente determinata dal fatto, cioè, stato un allargamento sproporzionato di questa figura femminile materna, che oltre il limite estremo dell'accudimento, che nelle società tradizionali non sconfinava oltre la preadolescenza, una volta adolescente il ragazzo passava al mondo degli uomini, viene iniziato, buttato dalle torri, massacrato da botte, frecce, abbandonato con gli animali feroci, buttato da torri altissime legate a un calcagno, comunque sia diventato uomo, lo tagliuzzavano, gli facevano del male, diciamo, adesso sei uomo e lasci perdere le donne. In realtà non c'è questo passaggio oggi, non c'è un momento in cui si diventa uomini. Quando si diventa uomini oggi? Quando si esce all'università, quando si inizia a lavorare, la prima trombata, non si diventa mai uomini. Quando mai sei uomini? Barbara, buongiorno. Buongiorno. Quando si diventa uomini? Si diventa uomini quando le mamme ti lasciano andare. Brava, ecco, questo già sarebbe qualcosa. Io perché parla con questa voce sconsolata? Perché ho avuto esperienze di mamme che non hanno lasciato i loro figli, per cui poi sono stati lasciati, in questo caso da me, perché non era possibile. Nel senso che ci sono queste mamme che non permettono ai loro figli proprio di crescere, perché evidentemente non hanno accanto un uomo che le soddisfa, per cui riversano tutto su questi figli, che devono diventare i sostituti di un marito ideale, secondo me. Se lo sono costruiti su misura, come lo volevano loro. Bravo. Sì. E non lo vogliono dividere con le altre ovviamente donne. Ovviamente l'atto sessuale non c'è, perché non c'è. Però queste mamme probabilmente per loro non è quello il punto della situazione. Il punto sì, della perché situazione poi diciamo la verità, l'atto sessuale può essere sublimato in mille maniere, non è l'atto sessuale. Quando uno ha il possesso totale di una persona diventa persino indifferente che ci sia sì, poi... Infatti, diciamo che le mogli o le fidanzate sono quelle che soddisfano quella parte del figlio che loro non possono soddisfare in qualche modo. In realtà quando hanno visto, è stata una sola, visto che nel mio caso non era così, perché comunque io volevo un marito, io ho dato forfè. Anche perché questi uomini poi non si prendono mai nessuna responsabilità, perché sono eterni. Senta, ma mi spieghi, la vittima della mamma invadente ammette questa cosa o è soltanto un sintomo che lei intravede perché lui c'ha questa figura presente? O dicono, oh, scusa, devo chiamare la mamma, scusa, la mamma non vuole, usciamo ma c'è anche no, la mamma. No, non se ne rendono conto, perché sarebbe devastante, si dovrebbero mettere in discussione l'intera vita, quindi non se ne rendono assolutamente conto. E in che maniera sono condizionati? Sono condizionati, spesso queste mamme inventano malattie, oppure si dicono sono sola, oppure insomma c'è sempre un qualcosa. Instillano sensi di colpa. Questo qua glielo fanno anche le mogli comunque, ogni tanto. Diciamo di sì, sì, però non è stato il mio caso, perché diciamo che io sono stata scelta perché ero una persona molto indipendente, per cui mio marito quando mi ha scelta era perché non si doveva occupare di me in qualche modo, no? E quando invece nel nostro caso è sorto un problema, lui non si voleva assolutamente prendere nessuna responsabilità e quindi io ho detto va bene. Lo ha smollato e ha fatto bene. Di dove è lei? Sono pugliese. Il cognome? L'Abate. Ma chi l'Abate cerca? La famiglia è per bene, l'Abate. Grazie, sì. L'Abate. Scusa, scusate che mi interrompo, mi fate arrabbiare. Un posto mamma bellissimo. Ma sono io che devo... Cioè, tu stai zitta proprio. Sempre così. Se no, non ti porto più. È che io sono abituato a uscire con le ragazzine, ma cioè, capito? Ma che vuoi la piccolina, che così dopo ti fa le mamma, corde? Mamma, così una con 34, la ragazza ma per senda, me è già grande. Ma senta, la piglia piccolina, ti fa le corde. Ma fa le corde. Questa mamma l'antica consiglia al figlio, un vecchio consiglio che sentì una volta darmi da un mio amico calabrese, disse: tu la moglie devi prendertela brutta, racchia, puzzolente e pelosa, se no ti fa le corna. E la mamma dice la stessa cosa al figlio, antica saggezza: non la prendere troppo giovane, troppo sveglia, perché se no ti fa le corna. Trova anche te una chioccia, una sfornatrice di figli, una lucidatrice di bidet, perché se no altrimenti cosa ci fai con la moglie? Fabrizio Blini. Dicevo a proposito dell'ascoltatrice che ha appena chiamato, no? Che c'è una tipica frase che le mamme ripetono ai figli sin da quando sono piccoli, che è: se fai così la mamma piange. Allora questa catechesi del senso di colpa, la madre lacrimosa che eternamente incombe, quella la mamma vittima, quella che nel libro io chiamo mamma carienina, quella condiziona i figli sin da piccoli. Una bella frase: tu che mi squarciasti il ventre e tanto soffrì per metterti al mondo. Esattamente, è il ricatto che ma verrà un giorno che i figli si faranno, che ne so, come mettersi un dito nel naso e esce fuori la caccoletta e nessuno soffre e non avremo più questo problema. Ma diceva bene l'ascoltatrice: l'unico vero antidoto è la distanza, cioè prima si crea un salutare divario, un gap di separazione e prima se ne esce. Il senso di colpa è instillato alle madri, ti arriva come un raggio laser che arriva alla luna in un nanosecondo, non c'è distanza che lo colmi. Sì, perché poi alla fine è così, la mamma sta al sesso dei figli come Attila sta all'erba, per cui è il diserbante del sesso dei figli. Assolutamente, è il preservativo del preservativo. Cristiana, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Credo che l'ascoltatrice di prima e l'ascoltatore di adesso abbiano già un pochino anticipato. Io non sono sposata, credo di essere una buona osservatrice e ho individuato personalmente tre categorie in questo senso. Allora, la mamma vedova di figlio maschio, donne alla larga, non se ne esce più. La mamma che cerca una compagna per il figlio, ma in realtà cerca qualcuna con cui gareggiare, oppure una terza via di fuga, che è quella di donne che all'inizio resistono a questa intromissione di ogni tipo, culinaria, perché la mamma cucina meglio, la mamma stira meglio la camicia. Poi, essendo donne che comunque lavorano e sono fuori casa per la maggior parte, più che subirla, l'accettano benevolmente e quindi rinunciano ad avere un uomo da gestire tutto per sé perché è faticoso e lo gestiscono a fine corsa, quindi a fine serata, e la mamma a mezzogiorno ha provveduto al figlio, provveduto però Cristiana, sera. Scusa, la interrompo, è anche utile, cioè averci una nonna, certo, in casa non è proprio da buttare via con quello che costano oggi le colf, le collaboratrici domestiche. Ma certamente, quindi sto dicendo appunto che sono donne che a questo punto accettano la figura della suocera invadente e da un momento di resistenza che è iniziale nei primi momenti del matrimonio, dove insomma si vedono a un certo punto estromesse in alcune cose, poi è benedetta. Ma le dirò di più, che mi è capitato di sentire che ci sono mogli che sono così abituate a questa doppia gestione con la suocera e la loro, ripeto, a fine corsa, per cui il problema delle vacanze, quindi di un marito da godere a pieno 24 ore su 24 in vacanza, diventa un problema di gestione di ansia. Sì, non però sono Cristiana, lei mi ha detto che sta sola. mica è detto poi che ci abbiano tutta sta voglia di godersi al marito, sa, quello sì, esistono sì, dei sono momenti terrorizzate. Sì, quindi alla fine avere questa sorta di gestione in sharing tra suocera e moglie di questo metto, ma fa anche comodo, ti tiene i nipotini, se lo tiene buono, gli fa le tagliatelle come solo lei sa fare, gli stira le camicie come lei sa stirarle, beh, da degli spazi di libertà e di curiosità e di esplorazione alla moglie notevoli, io non sottovaluterei questo fatto. Andrea. Salve, signor Nicoletti, intanto complimenti per la trasmissione, eccezionale, è una persona veramente che sa dire le cose ma che come si deve. Sono un contaballe come pochi, comunque andiamo avanti. Niente, volevo anch'io riferire, io ho 37 anni e sono da 10 anni quest'anno che sono fuori di casa, mi sono fatto 4 anni di affitto e poi mi sono preso una casa in mutuo. Io sono uscito di casa perché volevo la mia indipendenza, nonostante insomma 27 anni, 10 anni fa era già diverso da oggi. E quello che mi sorprende è vedere tutti questi ragazzi anche nella trasmissione corteggiati da queste fior di donne che io sinceramente guardavo loro e dicevo ma come fanno a dargliela? Da un punto ma di infatti vista... guardi, la tranquillo, su, non la darà mai nessuno, è tutta fiction, sia tranquillo, quello, sono dei figuranti, nessuno la darà e nessuno la prenderà, forse la mamma ogni tanto, però può essere se trova qualche attrezzista nelle retrovie della produzione, perché sennò altrimenti guardi, questo è scontato. In realtà è una pantomima, una grande sceneggiata, perché le ragazze sono tutte belle, i ragazzi tutto sommato, anche quello un pochino più impresentabile che è quello che fa appunto, si occupa di titoli finanziari, non so bene che è un po' stempiatello, però sono ragazzotti gradevoli, diciamo. È che le mamme sono veramente, le hanno scelte veramente con le fattezze antropologiche dell'arpia, perché quello devono essere, capito? Le ragazze, anche loro sono tutte belle, le pare che ci sia sempre di mezzo possibilmente la ballerina brasiliana che balla il samba davanti a questo ragazzetto per attizzarlo, le pare siano tutte perfettamente secondo i canoni estetici dell'ultima ora, le pare siano tutte passate più o meno dal chirurgo plastico, dal rimpolpatore, dal butullinatore, dal levigatore, dal chiappatore, dal tettatore, non è possibile, è chiaro che c'è stato un accurato e intelligente casting che fa sì che tutti possano vedersi in questo fantasmagorico sogno delle donne bellissime scelte dalla mamma, questo rafforzerà il fatto che se vuoi una donna bella, al di sopra delle tue possibilità, devi comunque delegare alla mamma questa scelta. Ci fermiamo un istante per le informazioni della Borsa. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Storie importanti. Non ho ancora trovato la persona che ti convincesse fino in fondo, forse esatto. Anche questo. Spero di trovarla a breve. Non ho avuto storie durature, sicuramente spero che lui, facendo il mio lavoro, potrà capirmi. Mi sembra diretta, non mediata. Ho fatto 1000 lavori, dalla metalmeccanica alla donna delle pulizie, ho fatto molti lavori. La vera tenerezza che provo in questo programma è per le aspiranti, già in sé fanno un passo che le porterà l'infelicità totale sciogliendosi un bamboccione, ma si vede che tanta, restiamo nell'ambito dell'interpretazione, facciamo finta che sia vero, diciamo così, ecco, ammesso che sia vero, queste ragazze che scelgono il compagno della loro vita o l'uomo su cui fare affidamento per un periodo considerevole della propria vita o un uomo che a loro piaccia, passano per le forche caudine di una mamma che comunque le centellinerà loro sempre l'usufrutto parziale di questo maschio, non avranno mai un possesso completo, perché una mamma che arriva lì come appunto portasse un bambino a scegliersi il vestito per la prima comunione, porta il bambino cresciuto oltre trentenne a scegliersi la fidanzata e la moglie, facendole le foto, analizzando e valutando le foto, commentando come potrebbe essere, se troppo di coscia allegra quindi no, e se troppo casalinga quindi no, non deve essere qualcosa che mette in ombra la sua figura. Stiamo parlando di questo assieme a Fabrizio Blini, che è uno scrittore che ha scritto Mamma Mia, che è il più grande ed estroverso controverso propugnatore del mammicidio che esiste nel nostro paese, che ha scritto appunto questo libro, Mamma mia, la figura della mamma come deterrente nello sviluppo culturale, sociale, economico dell'Italia moderna, dalle edizioni. Allora Fabrizio, andiamo avanti, una valutazione rispetto alle prime telefonate, vedo che ci sono tonnellate di ascoltatrici che non vedono l'ora di dire la loro, quindi il problema comunque esiste, ammesso che sia un problema. Beh, considerando le condizioni in cui ci troviamo, in cui, ripeto, si fa molto appello ad un riscatto, ad una reazione, questi sono comunque delle zavorre che impediscono. Ma fino a un certo punto, scusami, se c'è una fetta di umanità maschile di cui si occupano delle signore attempate, ma meglio così. Li nutriranno, si occuperanno di loro, impediranno che vadano in giro per strada a occupare spazio vitale, impediranno che vengano a insidiare le nostre donne, impediranno che possano rattristare la nostra giornata, se li terranno fino a che non saranno delle mummie, li terranno nell'ultimo abbraccio, se li porteranno nella tomba con loro, ma meglio, c'è troppa umanità in giro, un po' di umanità giustamente sarà affidata a queste signore. Io le trovo delle salvatrici della nostra felicità, sinceramente. Dipende da dove finisce questo po', a me mi sembra che sia un po' troppo effettivamente, anche faccio riferimento alla telefonata dell'ultimo ascoltatore che ha chiamato, che si preoccupava di come è possibile che queste ragazze si concedano a questo tipo di uomini. È l'ultimo dei problemi perché diciamo che a casa della mamma, di questo tipo di mamme, poi il sesso è completamente bandito. E la mamma fa lo sceriffo. Ma no, ma perché c'è una sorta di graduale compensazione con le tagliatelle, con il cibo, con le tisane, con il bromuro messo nascostamente nelle vivande. Fa in modo di essere anche colei che gestisce il piacere dei propri figli, ma è giusto che sia così. Se deve toglierci di torno, lo faccia radicalmente. Sì, ma così diventiamo una popolazione di gatti castrati sdraiati sul divano. Saremmo gli unici 3 o 4 gatti mammoni in una popolazione di gatti castrati. Lascia stare. Paola, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo portare la mia esperienza sia come moglie che come madre. Io sono sposata da 10 anni con un marito figlio unico. E mammone? Con orgoglio dico che assolutamente, diciamo, a differenza di quelli che erano i presupposti, si è dimostrato molto indipendente da sua madre. Tanto da diciamo, avere scelto di fare con me 4 figli, diciamo, contrariamente ai suggerimenti della madre, che gli suggeriva di vivere una vita migliore, ovviamente economicamente, con meno figli, più libera, più tranquilla. E quindi, insomma, tutti i giorni riscopro questo suo distacco dalla madre, questo suo desiderio di formarsi una vita propria. Quindi lei è fortunata, ha trovato un uomo che ha ucciso la madre. Ucciso, non fisicamente, ma sì. Vabbè, metaforicamente, chiaro. E certo, questo ovviamente, abbiamo fatto 4 figli, di cui uno maschio, ci porta ad essere con loro e soprattutto col maschio, a propugnare questa nostra filosofia di vita, ovviamente. Siete la famiglia felice, complimenti, ma non c'è nessun problema nella sua vita. No, beh, ora, non di questo tipo. Che problemi ci sono? No, dico, siamo normali, ecco. Cioè, nel senso, va annoiata alla fine. Quello. No. Una volta mi disse: i bambini in casa devono starci male, devono avere il desiderio di andarsene. Chiaramente la cosa va presa con le pinze, non devono starci male in generale, devono sentire. Non devono essere troppo coccolati, devono sentire il desiderio di... Ma nemmeno troppo poco, però, bisogna trovare una via di mezzo, perché l'affettività crea altrettanti dolorosi traumi che uno esporta tutta la vita. Va bene, Paola, sono contenta, non c'ho nessun problema, quindi non mi diverto. Silvana? Sì, buongiorno. Ah, lei c'ha una voce buongiorno problematica. Lei soffre? Io soffro, sì, perché vivo con un corsetto di ferro. Questo adesso. Ho anche qualche difficoltà, sì, mi dispiace, però non me lo metta in faccia come se fosse... Oggi parliamo di altre cose. Sì. No, ho piena partecipazione per il suo corsetto di ferro, però... Fa niente, ma sono cose che uno riesce poi a gestire, non è questo il problema. Il problema è quando si sente un discorso generalizzato sulle mamme. Quindi lei ha sofferto in quanto mamma, sentita chiamata? No, ho sofferto il fatto di sentire questa generalizzazione sulle mamme dei maschi. Io sono vedova da 23 anni, ho un solo figlio. e lui si fa la sua vita, si è sposato, abbiamo un bellissimo rapporto, però no, non mi sono mai permessa di intervenire. Ma lei è una circostanza fortunata, signora. Mi fa molto piacere per suo figlio, mi fa piacere per lei e spero che il suo problema fisico riesca comunque a farle vivere una vita relazionale soddisfacente con suo figlio. Sì, ma io mi sono organizzata in modo da essere indipendente, poi se c'è qualcosa di grave lui interviene. Però vede, signora, lei è proprio la conferma di quello che stiamo dicendo. Lei, pur avendo un problema che potrebbe essere un'arma di ricatto formidabile con suo figlio, sono mamme che distruggono i figli semplicemente per un mal di testa, per una depressione, per una stanchezza ai piedi, tua mamma soffre, lei che ha un problema oggettivamente, penso, faticoso da gestire, nonostante quello le dice sono indipendente, lei dà una grande lezione in questo momento con le mamme. Anche perché quando io vedo mio figlio soffrire, soffro anch'io, perciò è inutile che stia per le mie sofferenze a far soffrire anche lui, deve far correre la sua vita. E lei ci sta dando un quadro, lei ci sta dando un quadro perfetto e coerente di quanto una donna, una volta figliato, una volta dato gli strumenti di indipendenza al figlio, si prende carico, come ogni essere umano è giusto che faccia, dei suoi problemi e non tenga questo filo di passaggio indissolubile attraverso cui poi anche i propri problemi rimangono alla nostra progenie. Lei è un ottimo esempio. Le faccio i migliori auguri, Silvana. Pasquale. Buongiorno. Sì. Pronto? Sì. Buongiorno, dottor Nicoletti. Innanzitutto la ringrazio per farmi riflettere ogni giorno. Vabbè, riflettete voi, non c'ho tempo di riflettere io, questo è il problema. Comunque andiamo avanti. Grazie. Volevo soltanto dire che se i figli non crescono più, parafrasando un attimo Paolo Credetti, perché forse noi non siamo più capaci di renderli indipendenti, cioè come Anthony De Mello che diceva, messaggio per un'aquila che si crede un po'. Lei è un grande citazionista. Sì. La realtà è che ci sono mamme che distillano veleno, ti ammazzano in culo e altre che ti ammazzano piano piano, e questa è la realtà. Cioè, oggi noi figli non siamo più capaci di volare, forse perché una generazione non è stata più capace di allevare menti indipendenti. Lei è un coniatore di aforismi uno dietro l'altro, una sorta di enciclopedia, ma lei alla fine con sua madre come si comporta? No, diciamo che è un conflitto in conflitto, cioè nel senso che dobbiamo sempre stare a mediare perché... Quindi ce l'ha ancora addosso come un vampiro, questa è la sintesi? Sì, in parte sì, però ho imparato a fare gli anticorpi, ho imparato a lottare come si lotta ogni giorno. Combatte ogni giorno, ribatte rima poetica, citando Crepé pensa di poterla eliminare, ma sarà molto difficile, ci vuole ben altro. Eliminare no, non si elimina nessuno, non si deve eliminare nessuno, sì, invece purtroppo lottare sì. Per poter avere dei propri spazi. Ma per i propri spazi non c'è qualcuno che ne vuole essere il padrone per tutta la tua esistenza, esiste soltanto l'arma dello sterminio, simbolico naturalmente, non concreto e reale. Se uno si lascia spazio al nemico fino a che non lo ha completamente eliminato, ha sempre una possibilità di risalita da parte del nemico, di riconquista. Quindi finché rimangono degli spazi di mediazione, secondo me non si esce dal problema. Blini, che tu sei un esperto. Ma guarda, a questo punto mi sento di immaginare anche una proiezione, no? E tu facevi riferimento all'inizio a queste donne che sfilano in televisione davanti all'occhio di madri feroci. La domanda è, le vittime di oggi poi diventeranno le carnefici di domani? Cioè queste donne che soffrono la presenza delle madri altrui, delle madri dei maschi, una volta diventate mamme, come si comporteranno? Ma guarda, l'ho detto un'ascoltatrice agli inizi, l'ascoltatrice ha detto queste mamme sono così perché non hanno un uomo accanto e quindi si coniano l'uomo ideale per loro sul figlio. Queste che naturalmente prendendosi il bamboccione figlio di mamma non avranno mai un uomo accanto, lo avranno sempre in sharing, in cogestione, a metà con l'altra, anzi molto più l'altra, dovranno trovarsi anche loro un uomo e lo cercheranno nel proprio figlio, quindi è grazie a Dio una catena che non si estinguerà mai. No, è mai. Una catena di montaggio, sì, di smontaggio. È un'industria. Questo a me dà una grande felicità, mi dà allegria, non so perché non riesco a essere triste di questa cosa. Ci fermiamo un istante, informazioni del traffico. Email melog@radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Pierpaolo è tutto casa e mamma. Franca fa tutto per lui, ma non risparmia le critiche ai ragazzi che il figlio porta a casa. Eppure la loro complicità è tale che Pierpaolo si lascia influenzare volentieri. Ora però è il momento di trovare nel suo cuore e non nei consigli della mamma il suo ragazzo ideale. La mamma sarà d'accordo? non lasciatevi intimidire, non lasciatevi abbacinare dal fatto di una di queste mamme sia talmente aperta di idee di accogliere in casa i fidanzati maschi del figlio maschio. Non è apertura, solamente la mamma è totalmente indifferente cosa porti a casa il figlio. Potrebbe portare uomini, donne, animali da cortile, oggetti contundenti. Lei non interessa, tanto sarà sempre lei l'unica prescelta. È laterale, è indifferente ciò che il figlio superficialmente finge o gli è concesso soltanto sporadicamente di amare. Sei d'accordo, Fabrizio? Anzi, dirò di più, che nel caso in cui porti a casa un uomo, meglio, perché lei resta l'unica donna della sua vita. Diciamo la verità, sarebbe il sogno nascosto di tutte le mamme dei figli mammoni che portasse uomini a casa, perché non avrebbe rivali. Non solo resta l'unica donna della sua vita, ma acquisisce anche un altro figlio. Due al prezzo di uno. Esattamente, è il massimo. È un'offerta da supermarket. Ma infatti, guarda, si stanno tanto sbracciando sulle costituzioni della nuova famiglia. La famiglia ideale, secondo me, del futuro è proprio questa: una mamma con due figli che stanno assieme. Una mamma con un figlio che si fidanza. C'ha due figli che hanno entrambi una mamma. Ma pensate cosa favolosa, un terzetto perfetto. Andiamo avanti, Marcello. Sì, ciao. No, niente, io ho 24 anni, no, su questo argomento, no? Io me ne sono andato di casa, pensi lei, cioè, appunto perché questa cosa era diventata insopportabile. Cioè, mio fratello ha 27 anni, mia madre gli fa il letto, tutto, capito? Cioè, quello che dice lei è vero, e anche sulle donne. Cioè, io non potevo portarmi una ragazza a casa perché non andava bene, perché se non era la mia ragazza non si poteva. È terrificante questo. Magari c'aveva la casa libera, poteva usufruirne per veloci intime d'azioni, la mamma è no, non si può. Poi, per esempio, non voleva che lavoravo, lei aveva sempre voluto che io studiassi, tant'è vero che io adesso studio, anche perché... Vabbè, questo non aveva tutto torto, però... Sì, ho capito, però voglio dire, uno è libero di fare qualsiasi scelta, secondo me, nella vita. Cioè, la madre non si può destabilizzare. Cioè, comunque lei adesso riesce a mantenersi, lavora, ha una sua vita indipendente. No, io studio perché mio padre ha un'attività e... Beh, comunque fa il bamboccione, diciamo, in una dependenza di casa sua, non è cambia molto. Sì, cioè, diciamo che vivo da solo mantenuto, però vabbè, questa era la volontà di mio padre. Vorrei questa... anch'io volevo essere bello, ricco e mantenuto, e pieno sì, di donne. Sì, però faccio vita semplice, non è... No, no, ma mica che la invidio, dico, Lefko, se può permetterlo, meglio così. Però non è che ha proprio risolto il problema, perché un domani che papà le taglia i cordoni, che fa? Beh, lo so, dovrò cercare di... Quello è il problema, ma più passa il tempo, più è difficile. Sì, diciamo che... Però, cioè, voglio dire, questo fatto della madre ultraprotettiva è un problema enorme. Cioè, io temo che sua madre la prenderà per fame prima o poi, se non si procura per lei gli strumenti di autosufficienza. Ti attenta. No, questo è vero. Sì, comincia a pensarci, perché adesso... Però, nel senso, le ha allungato il guinzaglio un pochetto, si cesso vede, poi improvvisamente si taglia il guinzaglio e lei tornerà a quattro zampe come un cagnolo. Mamma, ti prego, rifammi. Ma io spero di entrare nell'attività di... Cioè, io avevo scelto la scelta di lavorare, poi ho visto la... Perché i miei hanno un'attività, insomma, che mi permette... Posso entrare in questa attività solo se comunque sia continuo un percorso di studi. Ma loro la molleranno mai, a 90 anni ancora staranno lì, finché non è facile. Guardi, le consiglio, si tenga bene quello che c'ha di famiglia, anzi è un grande patrimonio. Anche l'altro fratello che sta a casa è un fallito, studia filosofia, pensa di fare professore universitario, gli ho detto. Sì, però, sarà il figlio prediletto da sua madre, perché sta a casa, si fa fare il letto, certo, rischia certo, che lascino certo, tutto a suo fratello. L'ho trattata come un figlioccio, come un bambinetto piccolo. Ma ha capito tutto suo fratello, tuo fratello fa esattamente quello che vogliono da lui, non fa una mazza, fa il filosofo, fa l'intellettuale, sì, fa fare sì, il letto, bravissimo, non bravissimo. Porta donne a casa, sta tranquillo. No, niente, fa è tipo prete, un pretone, è un pretone, quindi gliela metterà in quel posto sicuramente, quindi l'attività di famiglia stia attenta che passerà suo fratello, io ci starei attento. Comunque faccia un po' lei, Fabio. Comunque buongiorno. Buongiorno. Criticare quando poi però vivi da solo mangiando comunque nel piatto del papà. Certo, è quello che ho detto. E lei invece, Fabio, lei sta a casa con... Io ho 42 anni e sono uscito da casa precisamente 20 anni fa. Quindi io a 14 anni ho iniziato il mio mestiere che mi piaceva tantissimo, non ho studiato però ho sempre lavorato. Vede che ci sono degli esempi, c'è una possibilità, c'è una via di fuga, non è che o così o si muore. No, vabbè, certo, ma non è stato facile indubbiamente, però io volevo parlare di quella trasmissione, no? Sì. Cioè, io ricordo, finché sono stato a casa, Sì, una volta mio padre rientrò e mi trovò a casa, insomma, con una ragazza. Succede purtroppo. Sono quei traumi che uno poi si riporta tutta la vita. No, ma e lui, insomma, uscì di casa dicendomi sbrigati a rivestirti e a uscire. Una brutta frase. Cioè, se capitasse a me con mio figlio, direi: perdona tuo padre che è entrato fuori tempo, vado a mangiarmi una pizza fuori, tranquillo, ci vediamo domattina. Io questo direi a mio figlio. Invece adesso vedo addirittura la madre accompagna il figlio maschio a conoscere un altro maschio. Oppure la mamma che, scusi il termine, mi sembra la mamma amante del modello. No, non è amante, no. Amanti, sì, no, vabbè, che vuol dire questo adesso? Non facciamo i moralisti. No, ma i figli, i genitori devono capire a un certo punto, i figli devono diventare un universo indipendente. E dal momento in cui devono diventare un universo indipendente, meno si interferisce nel loro universo, pur rimanendo vigili alle loro spalle, caso mai avessero bisogno, è meglio è per loro. Meno danni si creano nei figli quando noi non saremo più in grado di assisterli. Fabrizio Blini. Vedi che si articola il problema, ma esistono degli esempi comunque. No, per fortuna esistono anche degli esempi virtuosi, perché poi, come diceva anche questo ascoltatore, è tutta una questione di volontà, cioè se uno vuole prende e va di casa. Però a questo punto, siccome è così difficile che il figlio abbandoni l'alveo materno, e invece siamo così bravi a livello nazionale nella produzione di mamme, potremmo fondare un'industria basata sull'esportazione della mamma. Ma io stare zitto, io sono uscito di casa 30 anni, guarda, sono veramente non posso, se no, figuriamoci, conosce la mia biografia, direbbe: tu predichi bene ma hai bazzicato malissimo. Però lo sai come funziona? È il quotidiano che ti divora. Alla fine non ti poni il problema, perché le giornate sono tutte uguali, le giornate bene o male non ti creano grossi problemi, i problemi li risolvi tutti lì, o anche una vita fuori, poi c'è comunque un posto di ritorno. Ti passano gli anni come se fossero giornate, sì, in questa condizione. Sì. Questa, ci vuole qualcuno che da fuori, in realtà, questa è l'operazione importante, educativa, che può fare un programma questa mattina. Rendersi conto a un certo punto che bisogna creare il trauma che non esiste, perché le famiglie avvolgenti evitano che tu abbia dei traumi. Perché? Perché fai parte della loro sopravvivenza, fai parte del loro tessuto organico. Mara, buongiorno. Buongiorno, dunque, mi scuso in anticipo se va via la linea, perché sono in un tragitto dove spesso il telefono non prende. Sì. Comunque, io volevo solamente far presente una cosa. Prima sentivo parlare a 10 secondi della mamma. E di chi è la colpa? La colpa, se si vuole parlare di colpa, è sempre di chi subisce. Perfetto, la colpa è di subisce. È caduta la linea, mi dispiace, il tragitto è veramente impervio. Ci sentiamo domani. Grazie Fabrizio Blini, grazie Mammoni, grazie alle mamme.